Radio 24. Libera la voglia di fare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bentornati, buon venerdì a tutti. Sarà un weekend che qualcuno dalle parti di Vibo Valentia non dimenticherà facilmente. Eri là nelle ultime ore? Dai, devo proprio dirlo. Eccoti, ti vedo un po' strana stamattina. Pronta? Io comunque, se voglio, tutti gli esperti per farti investire quella discreta somma che hai vinto con il Super Enalotto. Guarda, ci penserò in modo molto serio. Allora, perché appunto a chi fosse sfuggita questa notizia, gliela risegnaliamo noi. Dopo un anno di attesa è uscito il 6 del Super Enalotto da 163.538.706 euro. A me basterebbero anche 538.706, che dici? A me anche i 6 finali, eccoci, gli spiccioli. Una cifra record, la seconda di sempre nel gioco con i 6 numeri. La vincita appunto è stata realizzata a Vibo Valentia presso la tabaccheria Lo Bianco, che salutiamo, chissà se sono anche loro degli affezionati ascoltatori, come tanti bar e locali pubblici appunto sparsi per l'Italia di Cuore e Denari. Allora, però, io perché ho fatto questa premessa oggi? Perché devo ricordarvi, rosichiamo praticamente. Un po' perché rosichiamo, un po' perché se questo fortunato giocatore volesse investire bene questa cifra, può partecipare il 18 novembre alle 18 ad Investire in Formati Live, il nostro progetto, la nostra iniziativa, che praticamente l'iniziativa che conclude un percorso che andrà ancora avanti dopo questa data, però un percorso che ci siamo date con Nicoletta da molti mesi a questa parte. Abbiamo fatto ogni giovedì questa scuola di risparmio, appunto Investire in Formati, e quindi faremo un punto della situazione su tutti i temi di cui abbiamo discusso in queste settimane. Cercheremo di capire un po' ancora una volta dove vanno i mercati finanziari e soprattutto quali sono le sfide continue della finanza e quelle che soprattutto preoccupano i nostri amici risparmiatori e piccoli investitori. La cosa bella è che potete partecipare, per cui andate sul sito di Radio 24, trovate proprio il link Investire in Formati Live. Vi ricordo un'altra volta la data, venerdì 18 novembre alle 18, e compilate il format appunto che trovate, quindi potete anche partecipare dall'esterno. Insomma, spero di aver dato correttamente tutte le informazioni di servizio. Ne hai anche tu? No, io non ne ho, no? Però vi dico come informazione di servizio che ci sarò anch'io. Ecco, brava, vieni a trovarci. Devo iscrivermi naturalmente. No, ti porto io, dai, ti raccomando. Bene. Allora, però oggi è l'ultimo venerdì del mese, certo, e ecco, come sapete, oggi venerdì ci occupiamo dell'altra metà del cielo. Torna infatti l'appuntamento con Salute Uomo. Oggi parleremo del PSA della discordia con il nostro Andrea Saloni, urologo e andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, responsabile scientifico del progetto Salute Uomo. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, vedi che si sentirà anche tutta la parte relativa ai denari, sicuramente. Molto. Noi parliamo di ristrutturazione. Abbiamo qualche ometto da ristrutturare, magari all'ascolto. Hai visto mai che c'è qualche incentivo fiscale in giro? Beh, le ristrutturazioni al maschile adesso vanno di gran moda, ecco, per cui hai visto? Perché no? Parleremo di PSA, del PSA della discordia, anche lo facciamo anche per la pubblicazione di un libro che ha fatto molto parlare, sì, di sé, proprio perché è stato scritto dallo scopritore del PSA, il papà del PSA. Parleremo di vaccini, sempre prendendo spunto da un libro, Vaccini al maschile, Andrea, HPV. Sì, HPV e non solo. Possiamo dire, Nicoletta, che parleremo di antismo, di un neologismo che abbiamo coniato rispetto a tutto ciò che è contro, vorremmo dire contro la scienza, contro la medicina, allo stesso tempo contro la salute e il volersi bene. I movimenti dei bastian contrari, praticamente. Sì, esattamente. Un neologismo che abbiamo pensato di coniare per questa trasmissione. Allora, andate a leggere l'editoriale di Andrea Salonia, dopo Cuore Denari, naturalmente, perché prima c'è la ristrutturazione, esatto, della nostra, infatti, casa, dove poi mettiamo un omino, bello, carino, gentile, esatto, tutto bello controllato, e noi siamo tutti felici e contenti. Infatti, no, tra l'altro stavo pensando che i bastian contrari sono assidui assidui frequentatori anche del mondo della finanza, non ne va mai bene come argomentiamo su certi temi, per cui sì, insomma sì. Ci piace anche questo taglio che oggi Salute Uomo dà. Allora, se siete dei bastian contrari, come si dice in piemontese, state con noi. 800 24 0024. E che uomo Michael Bublé, è uno dei miei assoluti artisti preferiti in assoluto. Allora, torniamo sulla casa oggi per una doppia ragione. Intanto per la nuova ondata di paura scatenata dalle nuove scosse di terremoto che hanno colpito l'altra notte il centro Italia, che ancora una volta hanno riproposto il tema della sicurezza delle nostre abitazioni. Poi perché la legge di bilancio ha confermato tutto l'impianto dei bonus per le ristrutturazioni e tutte le detrazioni fiscali su lavori mobili e condominio. Quindi se a qualcuno sembra il miglior investimento del momento, cioè quello di mettere mano alla casa per rimetterla appunto a posto, magari con criteri di sicurezza molto rigidi e criteri antisismici, eccoci a noi questa mattina per fare un bel riepilogo della situazione con Mirko Mion, presidente di Agefis Geometri Fiscalisti. Buongiorno Mion, ben ritrovato, è da un po' che mancava l'appello. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di avermi invitato nuovamente. Grazie a lei. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i nostri ascoltatori che naturalmente possono intervenire in diretta qualora non abbiano in chiaro tutte le diciamo questioni fiscali legate alla ristrutturazione appunto di un immobile. E allora, Mion, andiamo subito ai termini di legge. Siamo ancora in fase di norma contenuta nel documento programmatico di bilancio che dovrà essere discusso in Parlamento, poi definitivamente approvato. Per cui tutte le novità delle quali parliamo questa mattina dobbiamo ricordare appunto molto attentamente, che speriamo passino tutte così come sono, ma devono ancora concretizzarsi con l'approvazione definitiva del Parlamento. Sì, esatto, infatti diciamo che la sua mozione d'ordine è assai precisa, nel senso che dobbiamo un po' affrontare questo tema con quelle che sono le regole attuali e poi andare in qualche modo a proiettarci nel 2017 con quelle che sono le potenziali regole che sono state inserite appunto nel documento programmatico di bilancio che è stato inserito all'interno del decreto legge, che è stato quindi rimandato alle Camere per la sua approvazione definitiva. Quindi, fatto fermo questo principio, andiamo alle notizie che abbiamo fino a questo momento. In ogni caso, appunto, ribadisco, è abbastanza probabile che l'impianto che è stato configurato fino a questo momento non cambi. Il tema è che i bonus fiscali attualmente in vigore, Mion, per la ristrutturazione della casa, per la riqualificazione energetica degli immobili, ma anche appunto per i criteri antisismici, sono comunque, è un impianto comunque molto generoso e mi pare che si confermi tale almeno per ancora un paio d'anni. Beh, sì, sicuramente per quanto riguarda i bonus del 50% per le ristrutturazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, che per i bonus incentivanti la messa in efficienza del proprio, della propria abitazione, della propria unità immobiliare, dovrebbero essere, come dicevamo all'interno del documento, riproposti per un ulteriore anno. Questo è un po' un problema perché nella realtà si prevedeva una proroga di un quinquennio in modo tale che ci fosse una maggiore struttura da un punto di vista dell'investimento dei cittadini, però comunque insomma sono generosi e sicuramente verranno questi due riproposti per l'anno 2017. Certo. Per quanto riguarda invece il bonus per la messa in sicurezza antisismica, che in questi giorni vede un pochino di tristissima così, attualità, un maggiore interesse soprattutto per quelle aree che in qualche modo potenzialmente possono essere oggetto ancora, cioè ci auguriamo di no, però di situazioni come quelle che abbiamo visto in questi giorni, possiamo dire che dovrebbero essere prorogate anche qui le detrazioni del 50% ordinarie, però c'è un però, perché se erano previste delle detrazioni pari al 65% per le zone classificate nelle aree 1 e 2 dell'Italia, che queste zone sono facilmente identificabili attraverso il sito della Protezione Civile o dell'INGV. Sì, ma diciamo che queste cartine geografiche sono pubblicate da tutti i giornali in questi giorni, quindi le identifichiamo anche abbastanza rapidamente. Anche file di Excel dove all'interno si può fare la ricerca se il proprio comune rientra in una un'area piuttosto che in un'altra. Dovrebbero essere queste aree ampliate, quindi dalla 1 alla 2 essere inglobata anche l'area 3, quindi comprendendo, adesso per dire, anche il comune di Milano e parte del comune di Roma. Però questo bonus del 65 si ridurrebbe al 50. Ci sono in prospettiva delle maggiorazioni invece assai più generose, che possono arrivare fino al 70-80% in virtù di una nuova classificazione delle abitazioni, quindi a seconda della tipologia di intervento che viene fatto all'abitazione. Questa, ma questa parte è ancora, diciamo, in forse? Esatto, questa classificazione però attualmente non c'è, dovrebbe essere poi demandata, spetterebbe quindi al Ministero delle Infrastrutture definire questo articolato in modo tale che se miglioro di una classe o di due classi, a seconda quindi della tipologia, avrò diritto a una tipologia di bonus piuttosto che un'altra. Questo è importante perché se pensiamo arrivare fino all'80% di 96.000 euro, la cifra è estremamente importante. Praticamente te lo paga quasi tutto lo Stato, e quindi insomma direi che forse vale la pena fare una piccola riflessione su tutto ciò. Ci fermiamo per un po', per un attimino solamente. Mion, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, ma torniamo immediatamente. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Cuore e denari. Prima parte di Cuore e Denari, dedicata a chi ha in mente un lavoro di ristrutturazione o miglioramento energetico della propria abitazione, vengono confermati allo stato attuale i bonus anche per il 2017 dalla legge di bilancio. Tutto un impianto molto generoso, come dicevamo, e abbiamo fatto poco fa un ragionamento con il nostro ospite Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, sul bonus, sul cosiddetto sisma bonus, uno sconto IRPEF che parte dal 50% e sarà riconosciuto per le spese sostenibili tenute al fine di adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica, appunto, alle misure antisismiche. Abbiamo detto tutto su questo bonus, almeno secondo quello che sappiamo fino a questo momento, a prescindere dal fatto che l'aspetto più importante è che potrebbe essere particolarmente generoso questo incentivo fiscale per le zone ad elevata rischiosità, addirittura fino a permettere ai contribuenti un risparmio fiscale del 70-80%. Mion? Beh sì, diciamo che abbiamo detto quasi tutto, diciamo che qui la normativa andrebbe a prevedere invece, al posto di una proroga di un anno, la proroga di un quinquennio, e qui diciamo che ci avviciniamo a questo concetto di modello strutturato di messa in sicurezza del paese. Quindi, senta, qual è un lavoro tipico per una casa, appunto, che permetterebbe di avere questo incentivo fiscale, tanto per concretizzarlo anche nella testa dei nostri ascoltatori? Si tratta di rifare la casa, appunto, da cima a fondo, per chi non avesse mai messo mano ad una ristrutturazione, no? Beh, diciamo che in questo caso dobbiamo andare a riprendere, senza fare citazioni di normative particolari, comunque un decreto ministeriale del 2008 che va ad identificare quali sono le tipologie di intervento di tipo strutturale che possono mettere in sicurezza il nostro immobile. Qui sicuramente è necessario quindi una valutazione dello stato, dell'arte dell'immobile che io possiedo, e questo può essere fatto da un professionista abilitato attraverso una certificazione o una qualificazione del mio immobile, e da qui andare a verificare quella che sarà poi eventualmente la per usufruire di questi bonus potenziati, quale sarà la classe a cui appartiene il mio immobile, verificare attraverso gli interventi a quale classe potrei andare ad essere inserito. Quindi ci sono lavori che in qualche modo sono poi da identificare a seconda della tipologia di immobile. Certo, però insomma noi stamattina ci soffermiamo solo sull'incentivo fiscale, magari in un'altra puntata andremo un po' più nel dettaglio sulla tipologia di lavori che un immobile, appunto, deve sostenere per poterne ottenere. Andiamo ai bonus tradizionali, Mion. Per le ristrutturazioni edilizie, appunto, ce lo diceva già prima, bonus al 50% confermato. Fino a quando e per quale importo di lavoro? Ma Allora, qui siamo nell'ambito, diciamo, del tradizionale, quindi con le regole attuali la detrazione rimane del 50% calcolato su una spesa massima di 96.000 euro, quindi 48.000 euro di risparmio di detrazione fiscale. Ricordiamo che questi 48.000 euro debbono essere necessariamente spalmati su 10 quote annuali di, esatto, pari importo. Che qualche volta un po' scoraggia anche dall'intraprendere. In effetti, questo è proprio un pochino quello che va a scoraggiare alcuni potenziali interventi di messa, come dire, di ripristino del nostro patrimonio edilizio. Anche perché in molti casi si affrontano spese con poca capacità IRPEF, quindi con poca capienza, esatto. E quindi anche qui magari si ha un po' di risparmio da parte, piuttosto che investirlo in un titolo di Stato lo si investe nella riqualificazione della casa, poi però si scopre che magari si percepisce una piccola pensione e come dire, il livello dell'IRPEF versato allo Stato non consente la detrazione piena. Sì, oppure si hanno altre tipologie già di detrazioni in essere, oppure carichi di famiglia particolari che permettono di avere poca capienza, quindi c'è poca motivazione. Diciamo che la leva fiscale in questo caso rischia di essere, non dico nulla, ma non così efficace come vorrebbe essere. Anche se in realtà negli ultimi anni, Mione, lo ricordiamo perché forse vale la pena farlo, non sono poche le famiglie che hanno invece sfruttato l'incentivo fiscale per ristrutturare il patrimonio edilizio. In effetti sì, certamente. Infatti dal 2012, quando è scattata, come dire, la maggiorazione, che ricordiamo è strutturata all'interno del testo unico dell'imposta dei redditi del 36%, quindi questo è un dato certo, ecco, se siamo in una situazione di maggiorazione che si protrae di anno in anno, comunque abbiamo la certezza di questo 36%. Dicevo, dal 2012, dove c'erano circa 500.000 pratiche, adesso siamo arrivati quasi ad 1.500.000, credo. Come? Credo che siamo arrivati quasi ad 1.500.000. Siamo arrivati quasi a 1.400.000 pratiche per quanto riguarda le ristrutturazioni e a circa 330.000 pratiche invece per quanto riguarda, diciamo, il bonus energetico. Quindi un'impennata quasi di 4 volte tanto le pratiche che erano presentate nel 2012, in un arco temporale direi abbastanza breve. Generalmente quali sono, Mione, i lavori più frequenti che vengono effettuati quando si mette mano ad una ristrutturazione dell'abitazione, a parte, diciamo, il rifacimento degli infissi, che credo per quello che riguarda il risparmio energetico i lavori più gettonati? Certo, guardi, da un'analisi che noi abbiamo condotto, i lavori maggiormente vengono fatti sono quelli legati un po' al rifacimento dell'impiantistica, quindi è l'occasione per rivedere un po' l'impianto idraulico, il rifacimento del bagno, e quindi la conseguente, perché quindi si possono far rientrare anche determinate spese di abbellimento, perché con un intervento strutturale del rifacimento dell'impianto chiaramente si possono pensare di inserire all'interno del costo anche il rifacimento ad esempio delle piastrelle o l'inserimento di nuovi sanitari. Certo, già che uno è lì. Il rifacimento e tante volte la messa in sicurezza, perché seppur vero che da una parte gli impianti elettrici dovrebbero essere stati adeguati alla norma già da molti anni, molti non li hanno ancora adeguati, infatti. Quindi è l'occasione per fare questo tipo di attività. Allora, ci fermiamo perché dobbiamo andare adesso a dare la linea ai nostri colleghi del giornale radio. Ci rimangono ancora fuori ovviamente i bonus legati alla riqualificazione energetica della casa e poi anche il bonus per l'acquisto del nuovo arredamento degli elettrodomestici. Anche questo è un impianto di bonus interamente confermato e quindi vi spiegheremo tutto. Occhio a chi deve rifare anche l'arredamento appunto dell'abitazione, mi pare una buona notizia. Nicoletta, sei pronta? Io sono Hai questi prontissima. Investimenti in programma? Mi piacerebbe molto. E allora intanto sentiamo il giornale radio, vediamo se ti posso dare qualche buon consiglio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Radio 24, verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca, da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Cuore e denari. Ma che bella chiacchierata che abbiamo fatto con il nostro Andrea Saloni a microfoni spenti. Se potessero parlare queste stanze. Cosa racconterebbero? Allora, racconterebbero che intanto non sta ristrutturando nessuna casa, no. Ma noi glielo auguriamo naturalmente al più presto. Se poi vorrà avvalersi della consulenza di Mirko Mion, il nostro presidente di Agefis. Non mi ricordo mai, Mion, dove devo correttamente mettere l'accento. Agefis o Agefis? Agefis, giusto? L'associazione dei geometri fiscali. Non c'è un accento predisposto perché è un acronimo di associazione geometri fiscalisti. Noi diciamo Agefis. Agefis. E va bene, e così abbiamo dato questa informazione ai nostri ascoltatori. Per cercare su internet la vostra organizzazione, comunque non serve mettere l'accento da nessuna parte, per cui è facilissimo. Esatto. Allora, agefis.it e si trova. Allora, prendendo spunto purtroppo dalle vicende del centro Italia, dalla nuova ondata di terremoto che sta riguardando questa zona, abbiamo pensato questa mattina di rifare un punto della situazione su tutti i bonus fiscali che sono contenuti nella legge di bilancio che il governo appunto è intenzionato a confermare e che permettono appunto di alleggerire il peso delle spese che devono essere sostenute per rifare lavori di ristrutturazione dell'abitazione anche secondo criteri antisismici, per cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione del cosiddetto sisma bonus. Ci sono anche naturalmente tutti i bonus fiscali legati alla riqualificazione energetica della casa, per cui per farla come dire consumare un po' meno dal punto di vista energetico. E dopo tutto ciò si conferma anche Mion, avevamo promesso che avremmo parlato di questo in questa parte, anche adesso abbiamo anche gli ascoltatori naturalmente, però si conferma anche il bonus per mobili ed elettrodomestici. Ci sintetizza questa parte? Sì, sempre tenendo conto della mozione d'ordine che aveva fatto lei inizialmente, le attuali regole ma l'abbiamo chiamata così, la mozione d'ordine, l'abbiamo chiamata ormai così, la mozione d'ordine, sì, detto che, ecco, che non si creino aspettative che poi nella fase di definizione della legge magari potrebbero sono essere disattese, quindi dividere da quelle che sono le regole attuali che riguardanti per quanto riguarda i mobili e i grandi elettrodomestici. Fino al 31/12 di quest'anno sono in vigore le detrazioni del 50% sia per l'acquisto di mobili ma anche per i grandi elettrodomestici, quelli rientranti nella classe non inferiore alla A+, mentre invece possono essere acquistati e essere detratti anche gli acquisti per i forni in classe A. Questo se sono mobili legati, destinati ad arredare un'abitazione oggetto di ristrutturazione. Questo è importante, è sempre da dire. Limiti di spesa in questo caso ci sono? Come? Limiti di spesa. Beh, i limiti di spesa attualmente sono di 10.000 euro e si riferiscono quindi all'acquisto di, come dicevamo, dei mobili, e quindi la detrazione è pari a 5.000 euro, sempre tenuto conto che il recupero andrà spalmato sui 10 anni. Anche in questo qui, caso. Diciamo che il concetto di capienza viene un pochino, si riduce, perché insomma con 5.000 euro, quindi rate da 500 euro, la possibilità di poterlo recuperare è più alta. È maggiore sicuramente. Andrà poi verificato quindi se verrà prorogato di un ulteriore anno, anche se riteniamo che questo dovrebbe accadere, andrà poi verificato se sarà altresì inserito nuovamente il bonus per le giovani coppie, perché ricordiamo che per quest'anno le giovani coppie possono avere questo tipo di detrazione anche se sono slegati, anche se è slegato l'acquisto da lavori edilizi. Quindi è importante, perché questo ha dato anche un pochino fiato, ha dato un pochino respiro anche alle aziende del comparto del legno arredo, esatto, infatti, che ha avuto grandissime difficoltà negli ultimi anni. A verificare nella nuova legge di stabilità se questo bonus sarà prorogato anche per le giovani benissimo coppie. Allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, prima di dare la linea alla parte di cuore batteria di domande per Mirko Mion da parte dei nostri ascoltatori che ci chiedono appunto la loro condizione consulenza, ricordando anche che l'Associazione dei Geometri Fiscalisti si rende sempre disponibile con cuore e denari per rispondere in via privata. I nostri ascoltatori sono tantissimi quelli a chiederci una consulenza un po' più dettagliata rispetto ai lavori che devono fare, per cui non riuscendo ad accontentarli in diretta dobbiamo dare delle risposte per iscritto, e Mirko Mion con il suo staff da questo punto di vista è proprio veramente un grandissimo collaboratore. Allora cominciamo con Angelo da Roma. Angelo, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto per l'opportunità e complimenti per la trasmissione, sempre molto interessante. Grazie mille, Angelo. Allora, io ho 60 anni, non sono sposato e convivo con una persona che... Questa persona, cioè la casa è divisa al 50%, 50% è mia e 50%. Comunque di proprietà di entrambi, ecco, è una casa di proprietà, entrambi. Sì. Ecco, io devo sistemare di questa casa, dobbiamo rifare le grondaie perché sono ridotte malissimo e tutta la facciata di casa. Aia. Io vorrei sapere come mi devo comportare, devo fare una fattura unica, due fatture, c'è da presentare qualche foglio al comune, tanto non, è un, non sono grossi interventi, sono... Da quel punto di vista credo che qualche comunicazione preventiva al comune, soprattutto per la facciata, vada fatta. Immagino che un buon architetto, un buon ingegnere che l'aiutino in tutto questo sappiano la procedura che deve essere seguita. Però Mion, detto questo, intanto per utilizzare, per approfittare dello sconto fiscale, per esempio la spesa che sarà sostenuta, possono dividerla in due i nostri ascoltatori per avere appieno appunto l'incentivo? Sì, la possono dividere al 50% tenendo conto delle quote di proprietà. Per quanto riguarda l'opera, qualsiasi essa sia, soprattutto andrà verificata se si tratta esclusivamente del rifacimento di una facciata, quindi di una tinteggiatura, non rientrerebbe nelle opere detraibili e quindi va fatto un intervento, diciamo, di tipo un po' più strutturale. Certo. Per quanto riguarda l'avviamento dei lavori, sarà comunque sempre necessario l'intervento di un professionista. Lei citava ingegneri, architetti, io mi sento di citare anche geometri, fiscalisti, no, guardi, geometri. Ce lo dicono sempre, già erano pronti a scriverci, si figuri. Ma ne abbiamo uno in onda, dai. Ecco, esatto, infatti. E andrà fatta una comunicazione al comune, una cosiddetta CILA, cioè una comunicazione di inizio lavori dove vengono identificati questi lavori. Poi sarà quella che prima era la DIA, la dichiarazione di inizio attività, la DIA, non c'entra niente. La dichiarazione di inizio di attività, c'è stata questa, diciamo, sono stati inseriti questi modelli che facilitano un pochino l'intervento senza dover per forza di cose avere un'approvazione da parte del comune, quindi è sufficiente comunicare, così come dice appunto l'acronimo CILA, una comunicazione di inizio, certo, di inizio lavori. Poi sarà importante che il bonifico sia un cosiddetto bonifico bravo parlante. Ha detto la parola magica, perché per approfittare dell'incentivo fiscale, naturalmente tutte le spese sostenute vanno pagate con bonifico, dove devono essere indicati dei parametri, esatto, di legge molto specifici. Esatto. Mion, ecco. Esatto, dovremmo andare ad inserire, anche se ormai le banche si sono abbastanza adeguate, sì, a questa tipologia di bonifico, per cui troviamo anche sui sistemi web per il pagamento, se ci richiamo allo sportello bancario, lo ci sono già dei moduli, per così dire, quasi prestampati per effettuare questi bonifici, dove viene inserito il riferimento all'articolo 16 del testo unico sulle imposte dei redditi, che identifica le varie tipologie di intervento che possono essere agevolate. Possiamo dire che soltanto in un caso si può utilizzare anche un metodo di pagamento alternativo per usufruire dei bonus nel pacchetto, per così dire, casa, che sono gli acquisti appunto del bonus precedente, che è il bonus dei mobili, quindi che può essere effettuato anche attraverso il pagamento con carte di credito. Questo proprio per agevolare l'acquisto presso dei rivenditori a cui il bonifico potrebbe, come dire, complicare la fase di compravendita. Velocemente andiamo a quel punto lì, perché poi devo a questo punto non riusciamo a sentire gli ascoltatori. Le ultime raccomandazioni, Mion? Diciamo, la raccomandazione principale è quella anche di essere in regola con tutta una serie di pagamenti, tra cui l'IMU se si tratta di una seconda abitazione. Lo diamo per scontato, naturalmente. Allora, certo. Gianpietro da Udine, sentirei lui velocemente. Gemma, ci scriva, se no le rispondiamo in privato, perché è una questione un po' più complicata. Gianpietro, telegrafico. Pronto? Sì, vada. Voglio fare una domanda per mio figlio. Mio figlio è artigiano da 2 anni e mezzo, con partita IVA. Sì. Ha adottato il regime dei minimi. Sì. Lavoratore autonomo comunque. Lavoratore autonomo. Convive con la ragazza. Hanno acquistato un immobile adesso con un mutuo per ristrutturare. La ragazza purtroppo l'imponibile è molto basso, lui con il regime dei minimi, tutti i lavori di ristrutturazione dei 70-80 mila euro, quello che sarà, che sono parecchi, non si può scaricare niente perché con il regime dei minimi, ha detto il commercialista che non si può scaricare, la ragazza ha l'imponibile basso, se questo è aiutare i giovani mi sembra un po'... Grazie Gianpietro. Mion, un commento veloce per questo caso? Commento veloce, diciamo che Gianpietro ha trovato già la risposta sul quesito iniziale e rientra quindi suo figlio all'interno del cosiddetti incapienti di cui abbiamo già parlato. C'è una proposta, questo riguarda i condomini, io mi auguro che venga esteso a anche le altre tipologie di interventi, quindi a tutti, ed è la possibilità di fare una cessione al fornitore di questo bonus, quindi non avendo io la capienza per portare in detrazione le operazioni di ristrutturazione, posso cedere al fornitore di beni o di servizi che riguardano la ristrutturazione il mio bonus, quindi pagando per differenza le prestazioni che mi vengono interessante. Fatte. Allora mi la mettiamo per iscritto questa indicazione, magari la facciamo circolare, poi vediamo se può essere utile anche al caso del nostro ascoltatore. Mion, grazie molte per essere stato con noi, le preannuncio già che le manderemo una raffica di domande che non finisce più, avrà da fare per tutto il weekend, è contento? Niente scalate sulle sue montagne lì vicino. Grazie a voi per avermi ospitato, per aver dato l'opportunità alla nostra associazione di mettere, come dire, in evidenza le attività che svolgiamo e se rimaniamo a disposizione degli vostri ascoltatori per dare le risposte a domande anche più complesse. Molto bene, grazie molte. Tra l'altro Mion è un grandissimo sportivo e so che apprezzerà molto tutto anche il resto del programma. Eh sì, un programma che è dedicato al dottor Mion, ma non solo, a tutti i nostri ascoltatori. Torna all'appuntamento con Salute Uomo. Andrea, rapidamente, a beneficio dei nostri ascoltatori che volessero già mettersi in contatto con noi, i temi PSA, abbiamo HPV. Tre temi. PSA, HPV, ma soprattutto vaccinazione per, e l'ultimo, iniziamo la nostra prima volta con il piccolo grande uomo, questo ascoltatore che ci ha scritto relativo alla sua difficoltà nel diventare papà. Caro dottore, sono qui da 3 ore, paziente va allora, bene, ma solo PSA, ne abbiamo parlato tante volte, l'uscita di un libro ci impone di tornare a farlo, il libro si intitola Il grande inganno sulla prostata, è autore Richard Ablin, si dice? Ablin. Alias il padre del PSA, così possiamo definirlo dato che lo scoprì negli anni 70, e a distanza di anni lo scienziato diventa il principale paladino contro l'abuso, e sottolineo abuso, questa parola, della corretto. Sua stessa scoperta, tornando all'immagine del padre un po' come se rinnegasse il figlio. Il messaggio è molto semplice di questo libro, in cui l'autore si rivolge a un ipotetico John. Andrea. Il concetto è molto facile. Il libro, peraltro pubblicato negli Stati Uniti nel 2014, da noi arriva adesso, crea gran can-can, crea grande movimento di opinione, perché va lungo quella che è la scia dei cosiddetti antitutto. Antitutto, motivo per il quale mi è venuto da creare questo appunto neologismo, antismo, soprattutto legati all'ambito della salute, che è un ambito estremamente dedicato, molto molto delicato. Perché? Perché riguarda quello che noi siamo sostanzialmente, cioè il nostro star bene, nel nostro sopravvivere, la quantità e la qualità di vita. Da un punto di vista pratico, che cos'è il PSA? Prima di tutto è una proteina prodotta espressamente dalla prostata con il fine biologico di liquefare il liquido seminale. Se vogliamo, il fine è quello di permettere ai nostri spermatozoi di meglio muoversi e quindi, ancora una volta, un fine è riproduttivo. La proteina viene prodotta solo dalla prostata ed è questo il motivo per cui è l'unico biomarcatore, cioè l'unico messaggero che ritroviamo all'interno del sangue, espressamente utile nel maschio per dirci come stia quell'organo. Il problema legato al PSA è che non è così specifico da dirci: io sono alto e come tale tu hai un tumore, io sono alto e come tale tu non hai un tumore. Questo è il problema reale. quello di cui il libro parla, e da qui l'abuso del PSA, non è tanto il fatto che il PSA sia di per sé nocivo, quanto l'abuso del PSA ha fatto sì che spesso si sia incorsi in una serie di metodiche diagnostiche non sempre poco invasive, le biopsie per esempio, oppure addirittura la terapia, l'asportazione della prostata, la radioterapia, la terapia ormonale, che sono state suggerite forse erroneamente o probabilmente in eccesso rispetto a quelli che sono dei tumori della prostata. Oggi si tende a parlare dei tumori della prostata, non del tumore della prostata, perché c'è grande eterogeneità, cioè ogni uomo ha il suo tumore della prostata, caratterizzato in funzione della sua età, delle sue peculiarità in termini di cellule e di aggressività. L'abuso sta nel fatto che uno screening indiscriminato, queste sono parole di Ablin, ha fatto sì che purtroppo ci sia stata una certa messe di uomini sottoposti a metodiche diagnostiche e a terapia non banali, forse in eccesso. Lui lo chiama tumore, oggi si chiama, meglio non lui, indolente, perché pigro. Pigro, perché ci sono alcuni tumori che si muovono come delle tartarughe, cioè sono così lenti nell'evoluzione che probabilmente il paziente, cioè l'uomo, non morirà, non deciderà di quel tumore, ma per molte altre motivazioni. Il problema è che ci sono invece pazienti molto giovani, io faccio un esempio di un amico quarantenne, ma questa è la realtà dei fatti, ci sono pazienti molto giovani che hanno tumori subdoli ma allo stesso tempo molto aggressivi, che portano a morte e che portano ad una qualità di vita devastata. Questo vuol dire non già non devo fare un esame del PSA perché questo mi porterà in un tunnel, se vogliamo, delinquenziale, perché queste sono le parole che vengono usate, delinquenziali perché? Perché sempre nel movimento antismo il rischio è quello di percepire, faccio un esame perché devo arricchire qualcuno. Purtroppo questo è quello che un piccolo borghese pensiero ci porterebbe a ritenere dal libro. E mi dispiace, le mie parole sono un po' critiche, ma è questo che da scienziato e da ricercatore posso dedurre. Il problema è che l'abuso viene fatto laddove non ci siano rigorosi criteri in funzione dei quali il dato del PSA venga poi utilizzato per curare la gente. Questo è quello che si può dire. Allora, io ti cito, perché leggendo il libro me lo sono appuntato, una frase che è l'incipit di un articolo del British Medical Journal, sì, e che si sposa con il rischio di questa catena inarrestabile di prestazioni e interventi che un uso non corretto del PSA potrebbe portare. Si possono fare molti soldi dicendo ai sani che sono malati. Questo è quello che dicevo prima, cioè il concetto reale è che non si può demonizzare un marcatore perché in quanto tale faccia solo danni. Oggi abbiamo dati certi dagli studi condotti in Europa, e gli studi ormai non sono giovanissimi perché sono stati pubblicati alcuni anni or sono, e alcuni anni or sono c'è stata una grandissima polemica, un grande bailam che ha coinvolto i più grandi scienziati italiani, urologi e non solo. Bene, è vero che si possono fare danni laddove la medicina e ciò che la medicina ci mette nelle mani non venga correttamente utilizzato, però dovremmo partire dalla considerazione che tutti i professionisti siano ciechi e facciano un misuso delle caratteristiche strutturali che la medicina stessa mette nelle loro mani, che vuol dire ho un marcatore, ho una modalità diagnostica strumentale, ho una modalità terapeutica, chirurgica o non chirurgica che sia, e io sistematicamente le uso male. Credo che sia folle anche solo pensarlo. Allora, dall'indicazione, dal commento alla pratica, al consiglio, Andrea? Guarda, oggi... PSA, quindi, allora, questo famoso marcatore della discordia. Il marcatore della discordia deve essere proprio utilizzato con questo criterio, cioè facciamone un buon uso per prevenire danni molto più gravi, e facciamone buon uso anche quando avremmo la tentazione di abusare della nostra professionalità. Questo secondo me è un per buon mezzo. Esattamente. Quando fare un PSA? Quando farlo, e soprattutto io come uomo, come posso rendermi conto che il medico a cui mi sono affidata e di cui dovrei fidarmi usa questo strumento in modo adeguato? Io parto dalla considerazione che i medici che fanno questo loro mestiere lo facciano al meglio delle loro capacità intellettuali e pratiche. Quando fare il PSA? Gli studi più importanti sono studi scandinavi, vengono prevalentemente dal nord Europa e hanno fatto una valutazione di popolazione, cioè su enormi numeri di uomini. E quello che viene suggerito è che il primo PSA ad oggi debba essere dosato attorno ai 40-45 anni. Perché? Perché quel valore sarà prodromico di quello che è il percorso di salute prostatica dei 25-30 anni successivi. Tali per cui fare un PSA prima volta a 70 anni, ci rendiamo tutti ben conto che diventa poco utile per valutare quella che è la prospettica, probabilità di salute o di malattia di quell'individuo. Oggi, infatti, e ci sono voluti 30 anni circa perché arrivassimo a comprenderlo per bene, sappiamo che il primo PSA deve essere eseguito, dosato, sempre più da giovani, perché quello ci dirà quale sarà la salute prostatica dell'individuo. Quindi un PSA nei valori ottimali che sono? Allora, attorno ai 40 anni, sotto un nanogrammo millilitro, anzi, meglio ancora sarebbe sotto 0,7 nanogrammi millilitro, cioè la probabilità che nei 25 anni successivi quell'uomo abbia un tumore prostatico aggressivo è estremamente inferiore rispetto alla probabilità che possa averlo un altro uomo pari età con un PSA anche solo di 2. Adesso diamo la linea a Deborah perché dobbiamo andare a sentire che cosa succede sui mercati, ma arrivano molte domande dei nostri ascoltatori che ci invitano a chiederti perché valori di PSA nella norma spingono a volte il medico a effettuare una biopsia. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati, salute uomo, è il momento di occuparci della salute dei nostri ascoltatori, lo facciamo sempre, ma è nella puntata nell'ultimo venerdì del mese, lo facciamo in modo proprio dedicato, declinando tutto al maschile, parliamo di PSA, lo facciamo perché è uscito questo libro che ha fatto molto discutere, si intitola Il Grande Inganno, è stato scritto dallo scopritore del PSA, il messaggio è molto semplice, del libro, il PSA può far scoprire un cancro della prostata prima che si manifesti qualsiasi disturbo, ma scrive l'autore, nella maggior parte dei casi si tratta di tumori pigri, indolenti, tumore tartaruga che non si sarebbero mai manifestati in vita, ma che vengono poi spesso operati, mettendo il paziente a rischio di confrontarsi poi con gli effetti collaterali di questo intervento, che sono impotenza e incontinenza. Infatti il Ablin chiede scusa ad un ipotetico John, la cui vita è stata proprio rovinata da questo problema. Sai, Nicoletta, che mi piace aggiungere una cosa piccola. La medicina non è mai ferma, perché la ricerca non è mai ferma. È un po' come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, è un po' questa l'idea che abbiamo perseguito in quest'ultimo periodo. Questo perché oggi consideriamo terapie con intento curativo anche quelle forme che vengono descritte di sorveglianza attiva, in cui io ti diagnostico un tumore proprio per le caratteristiche di indolenza o di peculiarità di cui ha parlato il signor Ablin nel suo libro. È fondamentalmente diventato signore. Sì, il professor Ablin. No, scusate, così sembra che io non lo consideri per il già, giusto già merito. Già, è un po' nervoso in questo periodo, vediamo di reiterarlo di più. Per il giusto merito. Si sta carezzando la copertina. Esatto, vedi? esatto. Però il concetto reale è che non tutti i pazienti vengono operati, a molti viene suggerito, guarda che con le tue caratteristiche non è corretto che io ti suggerisca di essere operato o radiotrattato. Al di là del fatto che, soprattutto nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia compresa, è molto difficile che un malato che ha nozione di avere un tumore non decida proprio a sponte di fare una qualcosa che sia più aggressivo che non il semplice valutare controllo l'andamento del PSA. Attivo. E i dati sono scientificamente molto rigorosi. Allora, Giancarlo da Vicenza, buongiorno, e poi Dante da Roma, benvenuti a tutte e due. Ma Giancarlo alla precedenza ha chiamato prima l'800240024, tra poco parleremo anche di papillomavirus e poi di infertilità. Giancarlo. Buongiorno. Buongiorno. Beh, mi hanno detto di essere breve. Io ho fatto dei controlli al PSA 4-5 anni fa e già ero al limite a 3.9. Poi ho fatto ulteriori analisi in seguito e continuava a crescere il valore, è andato a 4,5, 6. E ho fatto una prima biopsia di 12 prelievi e il risultato è negativa. Poi l'urologo mi ha consigliato di tenere controllato il valore senza nessuna cura. E dopo un anno circa l'avevo a 7,5, mi ha fatto fare un'ulteriore biopsia di 24 prelievi e sempre negativa. Sì, che adesso io non so come regolarmi. Certo. Perché... La sua è una giusta osservazione, Giancarlo. Oggi la scienza ci mette a disposizione la scienza medesima, cioè possiamo suggerirle di fare una risonanza magnetica che si chiama multiparametrica, che è una risonanza magnetica molto raffinata che permette non solo di dare un nome e un cognome alle dimensioni della prostata, ma di guardare all'interno della prostata se esistano aree che con quel suo PSA possano essere più a rischio di contenere cellule tumorali e come tali di essere focolaio di biopsia più significativa di quanto non siano tutti i prelievi che lei ha eseguito ad oggi, che si chiamano randomizzati. Che quindi sparano dove sparano. Sì, è come se voi suddivideste un arancio in tanti spicchi e andaste per ciascuno degli spicchi a prelevare delle piccole carotine di tessuto che vengono esaminate. Una risonanza permette, laddove ci siano delle aree specifiche, che hanno un nome o un cognome, di andare a fare quelle che oggi chiamiamo biopsie di fusione, cioè fondiamo l'informazione della risonanza con l'informazione di un'ecografia che al momento dell'esecuzione della biopsia medesima permettono di essere molto più precisi. Oggi addirittura si possono eseguire delle biopsie in risonanza magnetica, che vuol dire a tutto tondo vado a mirare con maggior precisione quelle le aree. Zone. Esattamente. Che potrebbero essere, per cui al nostro Giancarlo possiamo suggerire proprio di rivolgersi, e in Veneto ci sono dei centri di eccellenza in questo senso. Dante, buongiorno da Roma. Buongiorno, mi scusi, io soffro di ipertrofia prostatica e praticamente l'assicurazione mi ha fatto un check-up gratuito dicendo vediamo un po' come sta. Io sono nei limiti di 2,2, ho 64 anni, però mi hanno consigliato di fare una biopsia prostatica perché ce l'ho dal 2011. Mentre l'urologo della ASL dove io ero andato poi mi ha detto ma chi è che le ha prescritto questo? Vedi, dice, che c'è molta una cosa esagerata. Grazie Dante, vedi che c'è molta confusione perché uno ti dice una cosa, esatto. L'altro ti dice l'altra, poi tuo cugino ti questo aggiunge, motivo... il medico dice chi è quello là che gliel'ha prescritto, la radio dice ancora altro. Il cretino, poi Andrea Salonia ci dice delle altre cose, arriva, cioè è un... No, ma questo è il motivo per cui il professor Ablin, torniamo là, ha scritto questo libro, cioè per il rischio che ci sia un misuso delle informazioni. Ad esempio Dante, che ha un PSA di 2.2, non ha un PSA di per sé suggestivo per la presenza di un tumore. Chi gli ha suggerito di fare delle biopsie ha probabilmente considerato tutto l'insieme degli aspetti di segni e sintomi che permette di fare una scelta personalizzata al malato. Questo è il reale rischio, cioè un abuso del, ed è quello che questo libro tende a sottolineare. Non abusiamo di un'arma che è raffinatissima da un lato, ma allo stesso tempo è semplice come un bambino, perché purtroppo deve essere contestualizzata al paziente. E questo è quello che nell'arco degli ultimi 30 anni si è cercato sempre più di fare. Allora, se avete dubbi, domande, scriveteci. Andrea, abbiamo anticipato che avremmo parlato di HPV al maschile. Il papillomavirus, non fatevi trarre in inganno dal nome, non si tratta di un unico virus, bensì di una grande famiglia composta da tanti ceppi diversi, alcuni sono più aggressivi di altri, in ogni caso sappiamo possono essere responsabili di molte malattie severe, dal cancro al collo dell'utero, ai condilomi, alle lesioni cervicali, fino alle neoplasie anogenitali di cui abbiamo parlato, quindi non c'è da scherzare, sappiamo che è in arrivo e ci si si trova già nelle farmacie il vaccino nonovalente, che rappresenta un'evoluzione dei vaccini raccomandati fino ad oggi. In Italia le bambine dai 12 anni sono vaccinate. Attualmente in 9 regioni la vaccinazione è estesa anche ai maschi e nel piano nazionale delle vaccinazioni è prevista anche, ci sono i lavori in corso, un'estensione a tutto a livello nazionale. Quindi anche gli uomini avranno modo di difendersi da questo nemico della loro salute. E qua mi fermo, ma ci fermiamo tutti, perché c'è l'informazione sul traffico, e ritorniamo subito dopo con HPV, che cosa fare, c'è un vaccino, chi deve farlo, solamente i ragazzi oppure da consigliare anche agli uomini adulti. A tra poco. Cuore e denari. Allora, rapidamente, subito la parola ad Andrea Salonia, HPV, chi è costui, perché anche gli uomini devono conoscerle, e se si devono preoccupare, ma soprattutto come possono occuparsene e prevenirlo. Perché ci è venuto in mente di parlare di HPV? In un secondo, perché uno stesso libro, delle stesse caratteristiche di colori, della copertina rosso e bianco, pubblicato in questi giorni, del mio amico Roberto Burioni, microbiologo della università a cui io appartengo, il cui titolo è Il vaccino non è un'opinione, e questo fa sempre parte di quell'idea dell'antismo. Roberto ben spiega perché il vaccino sia utile, e c'è un capitolo intero dedicato all'HPV, Piccolo Slam, questo è il titolo del suo capitolo, in cui parla estesamente dell'importanza della vaccinazione dell'HPV per le ragazze e per le signore, ma parla anche dell'importanza per i maschietti. Perché? Prima di tutto perché non se ne sa nulla. L'HPV non è un solo virus, ce ne sono più di 100, si chiamano sierotipi, i quali hanno capacità differenti, tanto che vengono distinti in HPV ad elevata aggressività e rischio oncogeno, quindi di promuovere tumori, e HPV a basso rischio. Quelli più frequenti sono sessualmente trasmessi per contatto, quelli che determinano i cosiddetti condilomi, quelle escrescenze che sono a livello dei genitali esterni o a livello della regione perianale. Di questi i più famosi sono i sierotipi 6 e 11, sono quelli che vengono considerati nel primo dei vaccini ad oggi disponibili, che si chiamano bivalenti. Poi, secondo vaccino quadrivalente, aggiunto al 6 e l'11 anche il 16 e il 18, i quali fondamentalmente sono molto più aggressivi e nel maschio possono portare a dare tumori del pene, del cavo orale e della regione anale e perianale. Poi, più nuovo, il vaccino nonovalente, che ha la caratteristica di aggiungere a 6, 11, 16, 18 altri 5 ceppi. Perché è importante? Perché questi vaccini danno una cosiddetta immunità di gregge, il che vuol dire che io vaccino tot numero di persone, la probabilità che questi stessi trasmettano il virus ad altre si riduce, e quindi anche i non vaccinati ne sono globalmente protetti. E questa è poi l'idea, questo... di vaccinare sia i maschi che le femmine. Esattamente. La vaccinazione è partita, lo ricordiamo, solo per le ragazze, ma in 9 regioni lo fanno anche i ragazzini, e nel nuovo piano vaccinale si estenderà anche ai ragazzi maschi dai 12 anni in su. Il problema reale è che si ha paura ancora di questi vaccini, che in realtà sono assolutamente efficaci e sicuri, e questo è quello che Roberto ben sottolinea nel suo libro. Ma possiamo definirlo un vaccino, metto le virgolette, anticancro? È scorretto dire che sia un vaccino anticancro nell'idea che faccio il vaccino e curo il cancro. Questo non può essere un assioma. È un vaccino anticancro nell'insieme, perché riduce la probabilità che, contraendo quel virus, io abbia un fattore di rischio prodromico alla comparsa del cancro stesso. Non curo il cancro. Allora, indicazione pratica, dalla teoria alla pratica, quindi agli uomini all'ascolto che cosa devono sapere e che cosa possono fare. Parliamo di ragazzini, per chi ha dei figli in età, nell'adolescenza, e ci rivolgiamo naturalmente anche ai nostri giovani uomini e anche agli uomini adulti. Allora, se dovessimo fare un'equipollenza con le ragazzine viene proposto una vaccinazione attorno ai 12 anni, perché a quell'età comincia l'attività sessuale da dati di tipo epidemiologico, e quindi è più probabile che ci sia una trasmissione sessualmente trasmessa. L'ideale è farlo lo stesso anche ai ragazzini. Ad oggi i vaccini disponibili sono stati testati come profilassi vaccinale fino ai 26 anni. poco preclude la possibilità che anche uomini di età maggiore possano farlo, considerando però gli studi fino ai 26 anni. Ultima parte dedicata alla nostra rubrica a tu per tu con gli ascoltatori, che abbiamo chiamato Piccolo Grande Uomo. Continuate a scriverci, naturalmente l'anonimato è garantito, usiamo nomi di fantasia, ci avete scritto in molti e abbiamo selezionato questa lettera. Carissimi, mi chiamo Mario, ho 43 anni e sono ingegnere. E questa è la mia storia. Sono solo questo, perché non mi riesce di diventare papà. Ci provo da quasi 10 anni. Ci proviamo, ovviamente, perché mia moglie Sandra in questi 10 anni si è fatta fare 1000 e più terapie, punture di ormoni, controlli all'utero e alle ovaie, esami del sangue e chi più ne ha più ne metta. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Io, invece, ero lo sperma. E solo quello. Di me i medici, tutti abbastanza gentili, per carità, prendevano il liquido e nient'altro. Mi si chiedeva solo di raccoglierlo. E adesso odio pure quello. Non credo mi abbiano mai visitato per bene, in effetti. Mia mamma dice che sono nato sano. E sono sempre stato un bambino prima e un ragazzino dopo, sano. Ma sa, professore, al mio paese non c'è uno che non ci abbia chiesto. E allora, quand'è che il Pino e la Maria, i miei genitori, li fate diventare nonni? Può immaginarsi come mi senta. È come se noi non ci fossimo neppure, perché non siamo stati capaci di diventarlo. Genitori, intendo. Cosa mi suggerisce? Andrea. Questa lettera ci porta a pensare ad una cosa sola, che i bambini si facciano in due e che all'interno di quella che è la coppia che oggi noi consideriamo coppia infertile, il maschio sia responsabile delle cause di infertilità fino al 50% delle volte e che 7 uomini su 100 in Italia ad oggi siano infertili. Quindi, quando una coppia va dal medico che si occupa di medicina della riproduzione, bisogna sempre avere grande attenzione per la parte femminile, ovviamente, ma il maschio non può essere trascurato. E questo è l'esempio lampante. In 10 anni questi uomini non sono stati considerati. Quindi, una buona valutazione andrologico-urologica. Qui porto acqua al mio mulino, ma poco conta. Spesso l'infertilità è prodromica dello stato di salute tutto, è espressione, barometro dello stato di salute tutto. Quindi è fondamentale che i maschi che afferiscono a centri che si occupano di medicina della riproduzione o che abbiano difficoltà non vengano considerati, come giustamente scrive lui, solo per il loro plasma seminale e gli spermatozoi, ma vengano considerati nell'insieme. Una buona visita, una buona raccolta anamnestica, dei buoni esami e una valutazione un po' olistica, sappiamo che questo termine non ci piace, ma però complessiva, rende bene, ci sarà certamente di aiuto al fine di far sì che quella coppia possa avere un bambino, da un lato, e al fine di considerare che quell'infertilità è potenzialmente prodromica di tumori, malattie sistemiche per quell'individuo e quindi quell'individuo deve essere considerato come tale da seguire esattamente come si fa per la partner femminile. Allora, in chiusura, prima di ricordarvi due dati importanti, vi rinnovo l'invito a scrivere e a partecipare al nostro diario virtuale dedicato alla prevenzione femminile. Si conclude, per concludersi, ottobre, il mese della prevenzione del tumore del seno, ma ad Andrea novembre parte Movember. Invece Movembre, quindi abbiamo un po' anticipato, gli uomini Movember, si fanno crescere i baffi, esatto, tu ce li hai già? È un po' una combinazione tra moustache, che è il termine inglese per descrivere i baffi, e Novembre. Appunto, ed è il più grosso movimento di opinione a livello mondiale, transnazionale quantomeno, dedicato alla ricerca su due ambiti tipicamente maschili: tumore della prostata e tumore testicolare. Allora, mandateci le vostre foto con i baffi se li volete far crescere, noi vi accompagniamo, naturalmente seguiremo un po' la crescita del baffo. Due date importanti domani: ictus e psoriasi. Abbiamo degli approfondimenti per voi, andate sulla pagina di Cuore Denari e trovate tutte le indicazioni, le informazioni dei nostri esperti che vi parleranno di ictus, si può prevenire, si può curare, e di psoriasi ci sono delle novità molto belle che permettono di avere una pelle libera dalle lesioni. I nostri approfondimenti per voi e noi per voi torniamo lunedì senza ponte, saremo qua regolarmente. Buon weekend a tutti. Thank you.